ci. Non si è sentito parlare, ho fatto un bel richiamate. Ma chi c'è in nessun posto? Infatti, deve essere in nessun posto lui. No, forse c'ha gente. Può essere anche. Chi è? A me mi fruscende invece, mi ha agitato. Tu cosa hai combinato oggi? Mi, se a poco fa stavo smontando l'albero. No, mi sono confermato. A domani mattina a smontarlo. Tu fai, io sono parecchiare che non le faccio, Tu siamo parecchiare che non le faccio. Perché succedeva qua sotto tanta di quelle proliasticate, allora avevo pensato di non farmi bio, e noi infatti non le facciamo più albero noi. Ho messo solo cose sulla porta e basta. Vabbè. No, io lo faccio per i miei nipoti. I miei nipoti già l'hanno fatto loro. Certo. Poche manna che sai, voi Gesù Cristo vivo. Certo, è un bel manna per niente. No, ma io non le faccio più, assolutamente. Non ne avevo più dove torno, non avevo più a fare niente, che lasciamo fare ai giovani. Infatti, io l'ho fatto per loro più che altro. Quando vengono a casa, a manco hai brutto, vedi, e mi ha detto di non farlo, io ho aggiunto, che a me se no, senza però non è nulla. Prima ci tenevo, e la facevo prima, molto prima di Natale, ma quindi di prima la fatica io, di mangiare, di mangiare un poco di preace, gatta. E faceva più casotto, gatto, però vanno, abbiamo deciso di non fare più, non farla più e basta, ecco, no. No, mi faccio tutta la sabata a Mario, io, tutti impacchettati, così che tutti i altri cosi, vi sono loro l'alimentari, no, nulla, tutta la batti, non ne fosse più, c'è pazienza, fallo, appierallo, la buona Dio dallo, contadino, che dà pazienza a te. Infatti è così, purtroppo io non faccio per i bambini, se no non me ne raffutti nulla. No, che sono mannicchi, i vicini, non sono più creaturi. Così che anche quello, però loro già se la fanno, per cui, però Babbo Natale sulla porta già la metto sulla scala, infatti qualcosa sulla porta, io invece quello non ne ho messo, anche non ce l'avevo, l'ho messo una parte, non sono riuscito a ciappare, non ho avuto nulla. Io già ce l'avevo, sono già da apparecchiare, per cui è sempre quello. Beh, nascosto, quando è quel periodo, tolgo e lo appendo. Vediamo un po', ma chi si ho? Aspetta un attimo. Meno male, ha abbaiato un po', hai sentito, è abbaiato un poco. andiamo. A giudizio che vi siamo mangiati la festa del barettone, alla faccia nostra. Allora, adesso ti vedo il bicchierino. Aspettiamo allora, da. È così, ecco. Ho sceso un pochettino stamattina giù. Ho messo in marcia quell'acquisizione. Così dentro il magazzino, mi sono seduta sopra e stava girando la ruota, così che mi sono divertito così. Buonasera, Buonasera signor Bacchi, mi stia bene? 380 ore, avanti signor Giomaria, è staccato, le ho portato buonasera, ben risentito. Ecco, gli sembrava strano, ho detto, ma ti ho pensato male allora, pensavo che ci sarebbe mangiato la fetta e panettone. Sicuro, quel panettone. E ci non lo fa mangiare, non lo mangia. Hai detto, mi sono sbagliato allora, Dai, amici di mare tutti e due, bu, c'è da per fare, bello pomposo oggi, bello pomposo oggi, mi sembra un galletto mi sembra oggi, ma chi si otto un chissà radio, ma speriamo che duri sempre così, ma chi non mi faccio niente, sempre lo stesso modo. E te detto, e noi pensando a male, gatto, quei giorni scorsi, che un po' che scia, un po' che non scia, boh, certo, vabbè, va, meglio così. L'ho detto io, speriamo che duri il signor Bacchi in questa radio. Ah, cioè, quello non l'ho attaccato più io, boh, è detto la catra, è burigato, e non ha giocato più tutto quello lì, Quale? Quello preciso al tuo, quello di Bacchisio. Bravi ginocchi, Daranzi, è puro, boh. No, non l'ha acceso più, è dentro la scatola. Ma giù altri no, che attaccato, dici che non ho toccato più quello lì. Che non blocca più. Cazzo, mi lascio andare 4 no, che attaccato. Quattro, altri 5 mi lascio attaccati. Vabbè, uno va di l'altro. Cioè, però signor Bacchi. Sicuro, è sicuro, così. Io ne ho fatto uno e voi. Capito? Che ci sei povero, noi siamo ricchi e paghissimo. E quello è, anche quello. Io sono un poverello, ora. E infatti le denunce. E sai come terribomba. Atta. Allora senti come terribomba tu. Bella, cazzo. Da cantera che non ci andiamo così. Signor Bacchi. Signor Giovanni. Ok. Poi chi sa da ciò c'hai a televisione, cazzo. Per carità. Mica da ciò c'ha vero, mi chissà Marini, cazzo. Per carità, cazzo. E su Maria. Chi che si tribunale che possa, cazzo. Purtroppo. Io poi sono un abbaio io di Canale 5 che cura. Abbaio canale di pesci. Mi ha già acceso per chi c'è, chi c'è di passato, cazzo, dove va? Da come c'è giuria, per carità, cazzo, va, cosa va a mangiare, non sai più cosa mangiare, cazzo, da dire sempre le stesse cose, ma con questa voce è diversa la questione, mi tocca a mangiarlo. E allora c'è un bacchino. Allora, mi sono... piano piano, facciamo piano piano e sempre andando. Capito Giovanni, che c'è dei biscotti? Vai vai Bacchi, ciao, va bene ugualmente. Se no, la facciamo andare bene, la mettiamo lenta. E questo oggi è andato a pescare? Sì, subito, e come no? Io ho giocato di pesca. cammino. Il mare era calmo e ci poteva entrare. Sì, ma è che allora ragazzo, nella vasca. Sì, che mi pare che sia un po' mangrove, diciamo lì. Come bacchi? Mi sembra sia un po' controve, andrà più calmo. Ah, ehi, sore. C'è per fare del gommone, c'è per fare di. A tiara tiara c'è da gonfiere, però il buffet di cosa, una bocca nel buffet, così che bisogna farla piano piano. A prima fino a primavera gli avrà fatto a gonfiarlo. Ah, a primavera no, ma è sì, a me ci da 8 è pronto. Compreso che sto mangiando devo venire la Befana. E domani? Stavo facendo la Befana stamattina. La Befana esistente, io non ci compreso. La Befana esistente, io morì. Ah, se vuole fare, ah, se vuole fare, ma così mantenere sempre in linea, sto ragazza. Vero tu? Sì, stavo assistendo stamattina. E poi ne farà da dare un giro, ne farà da. Ma non vi sei andato a vedere il cucciucciolo? No. Ehi, Angio Mario, dimmi, dimmi. No, vi sei andato a vedere il cucciucciolo? Ma forse l'ha compreso, Ma a vedere un cane non vi sei andato oggi? No, no, saranno, sei andato da poco pure. Vabbè. Pensavo che oggi pure mi andava che da. Ah, caspita, se andava anche da abbassata, oggi pure devo andare, e anche fessa, andavi spesso. Adesso non lo so quando andrò, se fa buono, e non fa del ghiaccio in chivi. E chivi che fai il freddo, Io è più laccio, è più freddo di no che tu. Meno male gli ero riservato questo cacciuccio. No, anzi, più freddo c'è, più bene stanno loro. Loro sono abituati a stare al freddo. Ah, così è. Mentre ci sono i bacchi, ci invece rimane sempre treccio. A chi è il freddo, vero bacchi? Accucciate, so. Ma metti lì, ora si muove un vicino all'altro. E quando ci vuole la cuccia, era 3 euro. Ma ho fatto riscaldamento noi ivi. Ma qua c'è la progettata, c'è un poco dove gli avevo sifoni, la caldaia era un po' come dire la caldaia di riserva che funziona. Ho fatto un riscaldamento. Se no ricordo di là, dico, avete comparito di avere un secondo profettore. E anche se ho pigliato un raffreddore, la voi tocca a portarli a risanarli, capito? Dici che mette il scaldamento che a Marco mi sa fa freddo, specialmente la notte. E mai si fa una capocciuglia commentata, capito? I muri sono isolati, solo la ghianna, se bisogna che rimuovere la ghianna, e si assalva nei caldoventoli. Ah, invece c'è il bacchissimo, a lui freddo sono più tranquilli, chi si andava allora a Bacchetto, si andava allora? Loro lì, più freddo è, più può stare di me, no, lo soffrono il freddo, Bugatti soffrono un bel, e invece il freddo stanno benissimo, stanno, per quello sono tranquillo io. Meglio che sia allora, va bene, va bene. C'era la ripiglia, c'era Bacchi. Catta, oggi ha soliato di sì, sì? Oggi sì, di lusso. Di lusso oggi. E il suo pensamento che ti dava, non so dove va. Ma no, me la vedo te non cucciuccio in casa. Io lo miglioretto, no, con la migliora. Purtroppo i cagnolini piccoli. Se sono abituati già non ne hanno freddo, state tutti e due un pari di Trento e si fratino uno con l'altro. E poi cioè, è per il lungo, la minore è per il lungo. Infatti, faccio vedere i lupi, là più freddo c'è e più tante ne vede. Io sono di freddo, la metto arromantiata e non ci qui niente, però bene a carezzarla. E allora, andiamo, via, andiamo, dai, dai, ma la temperatura si deve essere alzata un po'. Allora, tu esci dal microfono, ho mangiato le parole. Ho detto, ma chi? Che la temperatura si è alzata. Sì, non sono alzata, mi sembra che stamattina quando uscire in campagna era 8. Stava cominciando a alzarsi la temperatura, però arriva a 8 gradi, arriva, non di più stanotte. Vediamo domani, cosa succede? No, ha detto che saliva la temperatura. Stanotte scendeva sui 8 gradi e boh. Poi oggi mi chiami canottiera. Andiamo e andiamo. Anche 60 gradi. Certo, dentro la Aragosa, dentro la, come ti si chiama? Lo, ma, ah, ma come ti si chiama? Dentro la serra, là, vuol dire. Sì, dentro la serra. Tra tanti vicini che beccaglio. Perché? No, anche in estate non siamo mai sceso. In estate devi scendere, senti il vento, venga quanti 5 minuti, ti do 100 euro. Ciao Mari. Sto a un attimino, la rientro subito. Siamo qua. Ma chi quella d'estate si fa di... arrivi a 100 gradi, infatti brucia bulli bianchi, brucia così. Ma d'inverno si sa di me. D'inverno sì, d'inverno non sono stato, ma estate non si può stare. È stato troppo caldo, bisogna aprire tutto. Se tira un po' di vento si sta bene, se no se la ricalma, oi, così l'uovo, capito? Cucino l'uovo tra la serra. Ah boh, io mio, lo gozo, mi ha giustudato, che si stava fischiando qua con tutti e due. Parlavo, non capivo più cosa dicevo, capito? Basso di radio, basso di radio sentivo. Non lo so se ti faccio, era stata gente nuova però. Oh, ma qua? Sì, qua, io ne dicessi. Non lo so chi sia, sicuramente qualcuno che era lontano. No, non sono riuscito a capire, stavo ascoltando perché stavo inciampagnato tutto il capo. Sicuramente qualcuno da lontano, o è Porto Torres, magari ora lì, no, l'Alghero arriva bene qua. Da me l'Alghero arriva male perché c'è un palazzo che lo copre, da quando l'ho fatto quel palazzo lì, Alghero non ho più sentito. No, io invece Alghero lo ascolto benissimo, Porto Torres è che ascolto basso, l'ascolto secondo dove... Porto Torres lo sento benissimo, proprio a bomba. Alghero non più, non lì, da quando ho fatto il mio tacere per costruire il palazzo di fronte a casa, non c'è la patella. Purtroppo Porto Torres da me arriva a basso. Alghero mi arriva bene, secondo nel punto che... Tu sei libero, sei già Alghero, tu sei. Sei abbastanza libero per Alghero. Sì, per Alghero sono... no, non sono abbastanza libero, c'ho il palazzo di coso davanti, che caccia tutto. Ma non mi fa niente quello, passo, passo, lo superi voi, sei... Allora lì sei già più alto tu. Purtroppo già è così, purtroppo è così, e cosa, a volte arriva bene, però c'erano giorni che non li sentivo. No, l'altra volta quando stavo parlando quello là lo sentivo bene di Alghero. E più o meno non ho sentito niente, con l'altro sì, c'era quello che era, poi non ricordo, parlavo con un gomito della macchina, quelli sì, anche io lo ascoltavo bene, ascoltavo a cosa che era vicino al porto col portatile e lo sentivo benissimo da Alghero. Ebbene, zona libera e poi bisogna avere il portatile molti watt ha, certo è un tocchi che c'è 500.000 watt, no? No, quelli no, qui si fa 200 metri, 200 metri al massimo. Giri l'angolo e non intendi più. Ma io sto facendo quelli a 5 watt. Sì, io. Eppure c'è quel ragazzo nuovo, arrivo da Manino, arriva. Secondo me va bene, se è vicino ti arriva bene, dipende da dove è anche, se è in zona pulita. Se Marino è aperto, Marino c'è abbastanza libero, Marino, non c'è chi sia fatto con disturbi, oppure c'è una fonte di energia vicino. Ciao, ci sono, buonasera a tutti, avanti da Chisio. Sì, Marino, sono ascolto, buonasera Marino, ben ascoltato. Tore ha disperato, avanti Tore. Ehi, buonasera signor Marino, mi stia bene, buona Befana. Auguri anche per lei signor Tore, le palline tutte assolte, sì. Le palline? No, no, mi... ci stavo provando a toglierle, ma... a domani a Cavanelluccio. Io ho tutto contatto, tutto contatto e conservato. E io invece ho cominciato a togliere qualcosa. A domani a togliere le palline. E vabbè, tu già c'hai un po' di tempo, dai. Ah, ti sei da Chisio? Marino, piace già le palline. A proposito di palline, allora, con l'amico tuo, perché non è venuto, lo sai perché? Perché l'hanno operato. Perché l'hanno operato? Sì, ha operato di ernia. Urgente la sicurezza. E tu Giovanni, mio cognato, sta a mezzogiorno. Ormai tu dici, mi ti devo andare via tu. Appena c'è andato via tu, ci è venuto un amico di Giovanni e me l'ha detto. E l'hanno operato la fine di ernia. Sono riuscito domani. Ah, meglio così, va. Per quando io ho convinto che la moglie l'avrebbe chiusa in camera. No, era in camera, sì. Sempre in camera era. Solo in camera dell'ospedale. Ah, ecco, ok, va. Tutto va bene, meglio così. Guarda, Bacchi, se accendi con la palestra di là, con la frequenza c'è gente. Ogni tanto sento qualcuno, qualcuno che conosci. No, non sono riuscito a capire, ero leggermente distratto. Dimmi, Marino. Se accendi il PNR, con la frequenza che ti ho dato, senti qualche amico che sta modulando e sono in greffa. Ce l'ho. Allora, signor Tore, tutto a posto oggi, sì? Ehi, a voglia. Ho toccato un po' la Befana, appunto. Ehi, voglia. La Befana, io stamattina mi sono messo, ho fatto un po' di roba, c'era roba pure all'esterno, lampadine e così via. Tutto fatto, tutto fatto nei bordi, paletti, palettini, laser, ho tutto preso, messo a posto, la roba c'era qui all'interno, sotto, ho tutto conservato. Poi ho Genova, ho tolto la roba della sua e la stessa è una bella sistemata. Per quest'anno è tutto ok. Ci pensiamo, se ci accattiamo il prossimo anno, avanti. Ciao Mario. Stamattina mi hanno fatto vedere alcune foto, mi hanno fatto vedere. E quale foto? Oh, Tore. Un po' di gente vostra mi hanno fatto vedere. Che devono portare su. Questi qua sono due del comune. E dice che hanno fatto foto un po' di gente che lavora da voi. Quindi devono portare su in comune, poi il comune deve far vedere alla ditta. Ah, e sai qualcosa che sono parlando ieri sicuramente. Una è Issa, poi ve la traiente Buru. Mondadori. Meglio così, meglio per loro. Pensiamo che le foto non si possono fare, sì, se si trovano una denuncia secondo le foto sono, Autorizzati sono autorizzati. Sono autorizzati sono del comune questi e sono autorizzati a farli. Hai compreso? Vabbè. lasciami fare, io già sto bene dove sono. Io sono al centro, insieme a Nicolino, non mi tocca nessuno a me. No, perché c'è un po' di coso che qua in zona è tutto abbandonato. Ma non solo per quello, no. Non solo per mondare cose, no. Anche per i lampioni, per anche altre cose, per le strade che sono abbandonate. Ci sono strade che dopo è entrata a Banoa, gli ha lasciato tutto quanto Bocciomari. A Tappadugi però è tutto gatto, è tutto a fosso. E già lo so, quando entra quella lì, lo fa, la tappa e lascia un casotto. Già lo so, io ho fatto delle segnalazioni dove sono io, però lo fa, lo sasciano e tappano così tanto per tappare e se ne vanno via. Hai capito? Una o due persone è caduta in terra, appunto, io ogni volta che la apro loro, prendo, faccio la foto e la mando a chi, a sorvegliante. Il sorvegliante poi sarà già, chiama direttamente sopra, all'ufficio direttamente. E poi per i lampioni, tutta in questa zona, su 50 lampioni ne funzionano i denti su, pensa un poco, arrivano i operai, si abbaiono e si innandano. Come al solito, andate, ma chi? No, non ci sono nessuno io. Ma ha capito che quanto è, non si aspetta, eh? 7-7, finale, sì. 4, inizio è 145. Vabbè, no, mi interessa il finale, mi interessava. Vabbè, c'è la gente che mi ha messo, ogni tanto, ho tanto visto il ponte, non lo so. Faccio acceso, mi sono notato, io qua, fino a poco fa, mentre ero con cosa, con Tore stavo parlando. Dai un colpo importante, c'è quella frequenza, va bene? Aspetta, tu senti? Senti tu me? Sente, Maria. Avanti, to. Ma chi? Guarda, ce l'ho acceso anche io, mi. In quella frequenza lì. Ma non hai sentito, ma chi? Niente, signori, un po' che sbaglia con la frequenza. Ah, stavo parlando adesso, stavo. La finale con la prossetta si fa. Finale questo? La prossetta, la finale. Ah, dammi un colpo importante, va bene. Senti, guarda se ascolti a me. Sì. Sì. Ma hai sbagliato la frequenza, vuol dire non è questa. Non è questa la frequenza giusta. Stai fai chiamare, ma ascoltate. Niente da fare, io non ci sento. Sentito abbastanza, ma chi? Ciao Marino, non ho sentito, non sente niente, 1-0-0-0. Ma non lo sono ancora adesso. A me è rilanciato Marino. Ma è bacchino, non sono abbastanza adesso, un attimino. Oh, man. inserita. Stavo con la porta inserita. Però la porta di chi è? Stavo con la porta inserita, ci arrivi. Come mi porto l'altenino? Boh. Vabbè, anche questo l'hai sentito, no? Niente. Alla fine è 7-8-7. 7-8-7. 4-7, no, non ci sono. Io sono 1-4-5 e 5-7-5. La notte, lascia fare l'inizio, il fine, finire 7-8-7. Vabbè. E già. Allora, che dici? Io voglio che ti dica. Cosa volere che ti dire? Forse con l'antenino non ci arrivo, capito? Non ci arrivo con l'antenino lì. Avanti, Tore. Sì, che sto per lavorarti. Guarda qui, ti faccio uno squillo adesso con il cellulare. Ti faccio uno squillo, ti do la cosa... appena appena dal microfono che non riesco a capirci. Ho detto se stamattina ci stiamo stazionando in zona. No, c'era i pompieri in Piazza d'Italia con la Befana. Oh, scendendo col cavo. È compreso. Ok. No, ma quella foto stamattina l'hai vista? Eia. È bello. Ah, di chi stai parlando? Con le persone là che ti ho detto? Eia, le ho trovate stamattina, me l'hanno fatta a vedere. Ah, vattene, le zembe in mono, i taglienti. Ah, vedi. Giù, c'è coso di ruzzi, in manedito. Che non andava come ci sono andati a fare la manutenzione. La parte la manutenzione, e poi non vado, l'hanno preso, però ci sono di che prendo la manutenzione. Infatti presentano chi ce la va, presentano. Voglio vedere cosa dicono. Mi presentano tutta questa cosa qua. All'assessore a vedere. Se deve venire baga in di badda. Perché ho visto già si vede anche la sua strada che è tutto abbandonato dove sei tu, anche all'interno. Ho fatto un giretto l'altro giorno, è tutto abbandonato. Boh, è uno schifo. Non lo capisco. Bene, ma allora, ti siamo Bacchisio. Non c'è nessuno, nulla, zero, è proprio zero. Non ce la fa. E vabbè, un po' di pazienza, anzi sono zitti. Vado a leggere, ma sono zitti. Ma già senti, se non è qualcuno proprio, già senti. Qui arrivano tutti i parati. E forse devo mettere l'apparato come il tuo. Questo piccolino lo messo nella bocca di parlare e di ascoltare. È un ubriaco. Qui arrivano tutti i parati. Vado a leggere, sono zitto. Ora stanno utilizzando le altre cose, vai. Signor Tore è andato. andemmo. Bobo. E allora siamo Bacchi, cosa mi racconti di vedo? Racconto di bello, che sto quando la destina non posso camminare. Mi fate male, manca la china e non la fare. A riposo, Voltale un momento Bacchi, voltale. Ma cosa, Marini, ci ho provato mille cose. Anche adesso ho messo con la fascia riscaldante. Ah, sicuramente Bacchi, stai bigliando la sciatica dai bigliando, ma ti fate a me ogni addanto. Ah, perché la sciatica ci ha aiutato la piscina di 8 anni e mi ha passato tutto. Che si usi? In realtà davvero? Ti passa tutto, il rumore contro la medicina è quella lì. Esattamente, poi i messaggi e passa tutto, poi i messaggi ti fa buttare un po' di caldo e ti passa tutto. E un po' che di mare mosso vivo. No, vai piano. fatto i viaggi romani, no? Sono venuto di nuovo da chi sono tu? Quale tu hai? Vai a maggio. Ma c'è Marino? Il reattore va bene come si dice adesso. Il basso a tutto. La per fare la torcia di televisione. E a te basta qui, se dentro di fare un massaggio non più di più. Ma non c'è televisione, ma chi? Chi c'è televisione? Era per farla, la torre di fa massaggi quella lì. Ah, la torre va bene quella, Ah, boh, non l'ho vista. Ah, ecco, lo vedi tu, eh? Già va bene, dai. Ecco, invece di lo so. Sta arrivando l'ora. Sta arrivando. Oh, Iulia. Domani ci lavora, vai. Ora usciamo anche più tardi domani, ma chi? Più tardi? Domani si lavora allora. Domani sciopero così per il momento a Roma, la montagna la prima volta con la faceva. E domani si lavora, io uscirò per mezza quarto, ma ci sarà un casotto da mezza perché hanno chiuso, da oggi hanno chiuso Scala R, dunque il camion non l'hanno scaricato, dunque e non sono usciti, dunque domani ci sarà un casotto dappertutto, un casotto. E prima uscivo anche la domenica, capito? Abbiamo un sguardo, il secco usciva, invece da oggi tutto chiuso, niente. Niente, non risparmio. E ma adesso assumono i pensionati però, quei pensionati che scasso fatiche che c'erano lì all'azienda vostra, li assumono. Li chiamano, volete lavorare. E da loro vengono donne. L'azienda, non ci siamo niente, è con la lista della discarica che giorni festivi apre da quest'anno e la domenica chiude. Fa al contrario, ho capito? Al contrario, qui la domenica uscivo minimo 5-6 camion, per il secco uscivo a coprire le zone, capito? Invece da oggi nulla, da oggi zero, dunque tutto il lavoro che devo fare oggi, e tocca domani ridoppio, ci sarà un casotto dappertutto. Allora zitto. Purtroppo. Se giù, deve essere che giù, allora la discarica che ha chiuso. Scala la domenica, ma da oggi non c'è più la domenica, capito? Tu con un casotto adesso, perché l'unico farà il doppia montagna in giro, doppia, anzi la doppia. Vuol dire che non lo pagano bene, dice non vi vuole andare più nessuno. Adesso è questa buruba edia, va. Non so cosa c'è o... sono sbagliato, io sono comune a venire in posto a aprire. Capito, non ho capito, secondo me c'è un caos. Sono giù da noi, oggi c'è lo spazzamento e cosa si chiama? E c'è lo stuzzo e basta. Attenzione, 0.0. Purtroppo è così. Anda bene, anda. E se ci apparano in più mandetta domani, vuol dire. Va benissimo, dai, signor Bacchini. Io vi saluto perché sono arrivato all'ora del Revendero. Bene, ciao Tore, salutissimi. Grazie della piccola chiacchierata, anche per Marino. Ciao Marino, salutissimi anche per te. Salutami la signora e il piccolo nipotino. A domani se coincide. Ma chi si ascolta prima di non va in QRT. Tutto ricambiato, ma chi? I saluti tutti ricambiati al 100% anche per te. Sono avanti, ciao. Sì, ciao Bacchi, stammi bene. Sogni d'oro stanotte. E ok, ci sentiamo domani se coincide. E allora, ciao. Io cosa non voglia. Dilla a me. Lo so, mi hai aggiunto la roba. Basta per decine di chiudo per fare la roba, oggi per domani la sera sono a posto. Anche io. Anche io mi devo preparare la roba. Uiuia, anda bene, dai, ci sentiamo, signor Mari. Ok, dai, ciao, ben sentito, saluto in casa, va. Sentiamo domani sera se coincide. Benissimo, io saluto tutti gli ascoltoni e faccio quello che. Ciao, ciao. Ok, ciao Mari.